already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Se volete siete tutti i miei ospiti nella mia villa a Miami. Ma te rendi conto, è pieno di gnocca, qui mi sa che ce ne fosse un nido, te. Guarda questa che spettacolo, e questa posso vedere te, c'ha due camere e cucina, ma la vedi che te, oh. Ecco, due camere e cucina, andiamo avanti così e l'incidente diplomatico, signori, è dietro l'angolo, perché ancora non è che si sono proprio ripresi dalla questione dell'abbronzato gli americani, anzi non capiscono proprio, traducono anche male, se andate a leggere le agenzie e gli articoli ricorrenti che serissimi, seriosissimi editorialisti regalano, scrivono su Berlusconi e il Sant'An, ma insomma un po' pensano di avere le traveggole, un po' poi naturalmente non riescono a inerpicarsi per i sentieri dell'umorismo, tra virgolette, all'italiana, e quindi lì l'incidente diplomatico, diciamo, si è sfiorato, ma forse ormai può considerarsi archiviato. Poi adesso arriva Massimo Boldi a Miami e siamo a posto. Questo tanto per prenderla alla leggera, perché le questioni in realtà sono più serie. I fatti delle ultime ore raccontano di una Washington estremamente agitata, eccitata e anche un po' confusa. Devo dire che ha fatto bene il punto della situazione un eccellente giornalista che spesso citiamo qui a Jefferson, si chiama David Brooks, è uno dei più importanti editorialista del New York Times, ma scrive e agisce dal suo ufficio di Washington, che andando in televisione ha provato a descrivere l'aria che tira nel team Obama, nel team del presidente eletto, fondamentalmente dicendo una cosa: hanno davanti un compito terrificante, un sacco di guai, un sacco di cose da sanare. Il peggiore errore in cui potrebbero incorrere sarebbe proprio quello di cercare di fare tutto insieme. So what are we going to see in these next months, David, and what is going to happen here? Well, there's a huge debate going on in Democratic circle and the Congress as a whole. How fast do you go? And you mentioned in your commentary with him and with Rahm, and I got the impression from him they want to do everything at once. Ecco, dice, il dibattito in corso tra i democratici adesso, dice David Brooks, è proprio quello di quanto dobbiamo correre, e c'è una corrente forte che sostiene facciamo tutto, mettiamo le mani a tutto. Poi aggiunge David Brooks, qua ci sono un paio di guai che hanno la priorità assoluta, anzi ce n'è uno che è la questione economica, su cui secondo me vanno riversate tutte le energie, altrimenti, come sentirete dire tra poco, si finisce in un disastro. Faith in Washington. Then you tackle the other stuff. The health care plan is going to cost at least $100 billion a year, probably way more than that. So if you pile all this together in the first few months, in my opinion, you're going to freak out the country. Se metti in pila, se metti uno sopra l'altro tutte le questioni che andrebbero affrontate e provi ad affrontarle tutte insieme nei mesi immediatamente successivi all'insediamento di Barack Obama, il risultato potrebbe essere quello di far impazzire la nazione. Questo è un parere col quale ci sentiamo peraltro di concordare completamente. E nel frattempo arriva la notizia che la Camera dei rappresentanti di Washington si riunirà la settimana prossima per discutere questo piano di emergenza, che deve mirare a fornire finanziamenti a un'industria automobilistica americana che ormai si è scoperta in condizioni di coma. Nancy Pelosi, il presidente della Camera, lo ha comunicato oggi agli organi di informazione, precisando che l'approvazione del piano susciterà reazioni negative sia al Senato sia alla Casa Bianca, dove c'è ancora George W. Bush. Ma la Pelosi afferma anche che la crisi dell'industria automobilistica avrà un devastante impatto sulla economia nazionale e che il Congresso deve provvedere urgentemente fornendo assistenza finanziaria, un aiuto che tra l'altro andrebbe calcolato calcolato come ulteriore, no, ai 700 miliardi di dollari che il Tesoro americano ha già a disposizione per stabilizzare il sistema finanziario bancario. Quindi uno sforzo ulteriore su cui peraltro gravano questi 3 milioni di posti di lavoro, se si considera anche l'indotto, esposti a serissimi rischi dall'attuale condizione. Si sa che su questo hanno discusso, anzi ci sono anche delle indiscrezioni che dicono che abbiano discusso in modo piuttosto accaldato, come dire, Bush e Obama in occasione della recentissima visita di Obama alla Casa Bianca. Pare che ci sia stata anche questa richiesta di una merce, di una moneta di scambio, no, da parte di Bush, che avrebbe detto ok, posso spendermi in favore di questo ennesimo stimulus package, no, pacchetto di stimolo economico, a patto che però i democratici del Congresso smettano di opporsi all'accordo per il free trade con la Colombia, uno dei punti di maggior impegno di Bush negli ultimi tempi. Tra l'altro la fuoriuscita, la fuga di notizie relative alla conversazione tra Obama e il presidente Bush ha particolarmente innervosito gli executive, i manager della Casa Bianca, che hanno oggi rilasciato un comunicato al Fiele, no, dicendo evidentemente il senatore Obama, notare senatore Obama, non presidente eletto Obama, non è non ha familiarità con una lunga e robusta tradizione di presidenti che quando tengono una conversazione privata la trattano come tale, ovvero la mantengono privata e evitano di soffiare nelle orecchie alla stampa i contenuti della loro conversazione. Tremano anche i vertici dei servizi segreti americani dopo l'insediamento alla Casa Bianca. Infatti Obama potrebbe cambiare e tagliare la testa, no, ai vertici dell'intelligence nazionale. Potrebbe cadere Mike McConnell e potrebbe cadere anche il direttore della CIA Michael Hayden. C'è un articolo interessante a riguardo sul Washington Post di oggi, secondo il quale i due funzionari sarebbero considerati responsabili di aver sostenuto pubblicamente la politica dell'amministrazione Bush in materia di interrogatori e di intercettazioni telefoniche, una delle questioni ricorrenti nell'ambito della sicurezza nazionale negli ultimi anni in politica americana. Un democratico della Commissione Intelligence del Senato ha spiegato che sulla rimozione dei due direttori si sarebbe già raccolto un ampio consenso, quindi ore contate per Hayden. Invece, come già vi raccontavamo ieri, dall'altra parte che succede? No? Dopo la sconfitta, no? il mattino dopo, le mattinate dopo, McCain gioca sicuramente moltissimo a golf e fa molti barbecue perché vuole prendere fiato e in un certo senso per lui, come dire, la collina, no? Il Gran Premio della montagna è stato nel bene o nel male superato, non ci sarà certamente più un'occasione di questo genere, ma per gli altri no, e per una in particolare, Sarah Palin, anzi si direbbe che l'appuntamento sia quanto mai rimandato al 2012. Anzi, ci sono tutta una serie vastissima, anche piuttosto divertente, di indiscrezioni, racconti di storie che parlano di una Palin che è rientrata in Alaska, ripresa la sua attività di governatrice, si è cominciato ad attaccare al telefono, a chiamare i grandi giornalisti, quelli che per qualche settimana le sono state alla calcagna ma che già vorrebbero un po' dimenticarsela, ma invece è lei a questo punto a farsi viva e a offrire lunghe interviste che stanno andando in onda su tutti i canali, in cui Sarah Palin ormai parla chiaramente di una ipotesi 2012. Se Dio vuole, se c'è una porta aperta nel 2012 o anche 4 anni dopo, e se è per il bene della mia famiglia, del mio stato, della mia nazione, mi lancerò verso quella porta. The clothes. When I arrived at the convention, there were clothes waiting for me and clothes being ordered for me and for the family, for eight of us. And, e poi Sara, come state ascoltando in sottofondo, provvede a togliersi, più che i sassolini, i macigni che ha dentro le scarpe e che evidentemente le fanno molto male. Qui sta parlando di clothes, di vestiti, di tutta la questione di quei $150,000 di vestiti per lei e per la famiglia che sostiene e assicura sono stati già impacchettati, chiusi in dei bei cartoni e rimandati ai legittimi proprietari, che poi sarebbero null'altro che il Comitato Centrale del Partito Repubblicano Americano. Lei dice è pazzesco che sia successa una cosa del genere, ovvero che la mia partecipazione alla campagna elettorale, probabilmente proprio ad opera di alcuni collaboratori interni allo staff elettorale di McCain, di cui io stesso ero parte, sia finita a parlare dei soldi spesi, della mia fissazione per lo shopping e del fatto che una reputazione come la mia potesse essere fresca di giornata, no? Potesse essere facilmente distrutta. Non ho ordinato io quei vestiti, sarei stata felice di usare i miei fin dal primo giorno. Poi ha fatto una specie di sua personale ricostruzione delle elezioni di Obama, ha detto comunque il sentimento contro l'attuale presidente, parlando di Bush, si è diffuso in lungo e largo per il paese. Noi rappresentavamo l'attuale amministrazione, Barack Obama ha vinto perché è stato capace di tenere in piedi fino alla fine questa tesi, ma lei, per quanto le riguarda, per l'anno 2012 sarà pronta, anzi probabilmente anche un po' disoccupata. Che la chitarra di Sloan Clapton, no? Per scaldarvi i cuori in questa giornata un po' cupetta, mi sa, un po' dappertutto per l'Italia, che siate in giro in macchina, al lavoro o in casa. Caro Emiliano, so che di notizie dall'altra parte del mondo ce ne sono parecchie e quindi apriamo la prima pagina. Prima pagina. È sì, ci sono notizie importanti, alcune anche piuttosto divertenti. Allora, cominciamo da quelle serie. Andiamo in Iraq, zona tristemente alla ribalta da molti anni a questa parte, perché la Cina, questa è una cosa molto importante, ha concluso il principale accordo petrolifero dell'era successiva a Saddam, quindi dal 2003, da quando è cominciata l'invasione e la guerra americana. L'accordo vale 3 miliardi e mezzo di dollari e serve per cercare e sfruttare petrolio nei ricchissimi giacimenti di Adab. Siamo nell'oriente dell'Iraq, e questi giacimenti sono stimati almeno in 90.000 barili al giorno. L'accordo è stato stipulato con la compagnia cinese statale China National Petroleum Corporation, e l'obiettivo dell'Iraq, che è al terzo posto mondiale per i giacimenti di greggio, è quello di incrementare la produzione di petrolio, che naturalmente ha subito dei contraccolpi con la guerra, e arrivare a 6 milioni di barili entro il 2016. Quindi la Cina affonda le mani anche in Iraq. Poi tra poco scopriremo invece come si sta muovendo in un altro territorio complicatissimo, quello del Congo e più in generale, certo, dell'Africa. Poi sempre dalla Cina, notizia seria ma sulla quale possiamo anche sorridere: c'è un gigantesco sciopero dei tassisti che sono fermi, i nostri amici tassisti, per tutta la Cina o comunque per Pechino. E c'è un'agenzia molto puntuale che dice: non c'è un solo tra i 1050 tassisti di Pechino autorizzati che sono in movimento, quindi lo sciopero è compatto. Sono pochi. Tutti però si sono fermati a fare lo sciopero, protestano perché vogliono aiuti per i costi che aumentano, perché insomma l'inflazione, certo, cresce, i problemi ci sono anche in Cina, e soprattutto vogliono maggiori garanzie per questa competizione illegale che c'è anche nell'ambito dei tassisti. Con 1000 tassisti a Pechino gli hanno un po' la situazione italiana, quindi Roma, capitale, soprattutto, certo, di poco tempo fa. Forse vero, anche lì, vero, come capita anche dalle nostre parti, alla fine si troverà un accordo, forse finirà tra luce e vino anche a Pechino, chi lo sa. Poi parliamo di Gong Li, che credo rimanga ancora oggi la più famosa, la più bella attrice cinese, già musa di Zhang Yimou, insomma, ai tempi, certo, di Lanterne Rosse e di tanti altri film. Erano pure marito e moglie o comunque fidanzati all'epoca. Beh, ma poi era anche insomma l'attrice emblema, no, della rinascita del cinema cinese. E adesso non è più cinese, no, nel senso che lei da tempo è sposata con un nuovo uomo, insomma, ben ricco, un tycoon del tabacco di Singapore che si chiama Oi Yoe Soeng, e ha preso la cittadinanza di Singapore. Siccome da questo punto di vista la Cina è piuttosto restrittiva, perché non accetta la doppia cittadinanza, devi scegliere, lei ha scelto quella di Singapore, quindi da oggi, da questi giorni, non è più cinese. E i cinesi si sono incavolati, insomma, parlano chiaramente di tradimento della loro attrice più famosa, soprattutto fuori dai confini cinesi. Io vorrei citare solo un paio di mail. Devo dire che l'avvento, peraltro non ancora operativo, di Barack Obama preoccupa molti dei nostri ascoltatori. Simo ci dice: e vai Frank Delano Obama, mi piace moltissimo questa cosa. Beh, c'era una frangia di meccheniani ascoltatori che rimane viva e attivissima. Dice: comincia il suo New Deal prima ancora di insediarsi. Ma no, non è vero, lui sta cercando di tappare i buchi, bisogna vedere quante dita hanno le sue mani. Miracoli di un presidente molto pop. Oppure ancora Claudia fa delle proposte, tra l'altro c'è tutto un interessantissimo sondaggio del New York Times per chi vogliono gli americani nei vari ministeri, ma Claudia li supera, li scavalca tutti a sinistra e a destra contemporaneamente, proponendo Wesley Snipes alla CIA e niente meno che Mr. T alla sicurezza nazionale. Benissimo. Allora, Barack Obama, presidente eletto degli Stati Uniti d'America, fra le tante cose deve fare sono anche un po' di telefonate, no? In questi casi poi devi ringraziare, devi salutare, ti devi presentare. Naturalmente lo sta facendo con i potenti del mondo e lo ha fatto ieri anche con Papa Benedetto XVI, e lo fa sapere anche l'ufficio stampa del Vaticano, e fa anche sapere che nell'occasione comunque la conversazione è stata formale e cortese, ma soprattutto non è saltata fuori in realtà la questione che sulle pagine dei giornali e un po' per il in giro per il mondo sta come dire coagulando, no? Da una parte Barack Obama e dall'altra le posizioni del Vaticano, ma in toni tutt'altro che concordi, parlando ad esempio di ricerca sulle cellule staminali, dal momento che come vi abbiamo raccontato anche ieri con l'intervento di Marino, tra l'altro il team di Barack Obama ha fatto sapere di avere intenzione al più presto di eliminare il divieto, il veto posto da George W. Bush relativo ai finanziamenti pubblici sulla ricerca sulle staminali embrionali, e il Vaticano a questa notizia ha cominciato a dare segnali allarmistici. C'è stata una presa di posizione di cui vi abbiamo riferito ieri, espressa dal cardinale Javier Lozano Barragán, ministro vaticano della salute, che ha precisato che sulla questione non c'è accordo, non c'è neanche trattativa. La frase come dire chiave della sua presa di posizione è: mai si può prendere una persona per un mezzo, embrioni inclusi. Oggi la questione di come dire di frizione, no, virtuale, ma neanche tanto, tra un avvento, se mi passate la parola, di Barack Obama e la Chiesa Cattolica ha conosciuto un altro piccolo episodio, forse non così piccolo, perché tutto ciò è andato in scena a Baltimora. Si è radunata l'assemblea plenaria della conferenza episcopale statunitense, il cardinale Francis Eugene George, che la guida, ha parlato prima di tutto nei confronti di Obama, testuali parole: nessun assegno in bianco firmato su temi etici, e poi ha tirato fuori dal cassetto la questione dell'aborto, su cui Barack Obama in sede di campagna elettorale si è espresso in termini estremamente pro-choice, e per risposta o per reazione, vedetela come volete, la Chiesa Cattolica Americana sta dicendo: ma quale pro-choice? Anzi, per quello che ci riguarda, testuali parole, non è questione di un compromesso politico, non è questione di trovare, e questa è un'espressione che piace tanto a Obama, un terreno comune, qui è questione di assoluti, come dire, non se ne parla neanche. Ma noi invece, che siamo molto democratici, abbiamo chiamato Filippo Di Giacomo, sacerdote, amico personale e della trasmissione, canonista, conduttore del Cielo in una frase qui a Radio 24, a fare invece qualche considerazione attorno a quella che sembra già, no, l'inizio di una guerretta culturale, ma mica tanto guerretta forse, che dici Filippo? Beh, forse va bene, andrebbe meglio ricordare che gli americani negli anni 70, da Johnson in poi fino a Carter, si fecero cacciare a calci nel sedere da tutta l'Africa, ecco, con questa pretesa di imporre la sterilizzazione in India e in altre nazioni africane, o di praticare la contraccezione ricorrendo all'aborto. Ora, diciamo così, la battaglia è stata lunga, e con Bush forse la palla era tornata al centro, perché il nocciolo del problema... Beh, al centro, insomma. Ma sì, perché il nocciolo del problema è, diciamo così, anche l'attribuzione dei fondi governativi americani per le campagne di controllo delle nascite fuori dagli Stati Uniti, a un'agenzia che collabora con le Nazioni Unite, e poi anche il rientro. Ma è davvero una questione di soldi? Siamo convinti che non è una questione di ma soldi. No, ma no, se togliamo a questo problema l'orizzonte neomaltusiano di una visione del mondo legato, diciamo, a una strutturazione di un insieme di grandi tessere che hanno poi sul breve periodo, sul lungo periodo, anche delle operazioni di micro e macroeconomia, non la capiamo. Cioè, vogliamo capirla che il preservativo in Africa, tra parentesi, continente che i sociologi dello sviluppo dicono essere afflitta da un deficit demografico, come anche con cause sottosviluppo, è, diciamo così, probabilmente anche molto legato al fatto che c'è un continente che serve solo per avere risorse principali per il 20% dell'economia globale, e a cui tutto ciò che è stato detto di democrazia, stranamente, quello che è valso per la Romania e le altre nazioni, nonostante i moti politici che alla fine degli anni 80 hanno animato diverse nazioni africane, nessuno ha mosso un dito. Cioè, stiamo vedendo anche in Ruanda adesso, tra parentesi, quell'ONU pieno di viltà e quell'Unione Europea che va, vede e torna a casa e poi impedisce di intervenire. Cos'è? La vogliamo proprio sottrarre al... Ora... Però c'è uno scenario in cui, insomma, c'è un... No, quindi una... lo scenario diciamo c'è così... C'è un mondo che plaude a un possibile cambiamento. Sì, c'è un uomo che si propone mentale, sì, il Vaticano si sottrae, sì, al coro. Diciamo. Poi, diciamo così, magari quel mondo che non plaude è quel mondo che non vuole che l'universo sia creato a immagine e somiglianza di quel 20% del pianeta che utilizza le risorse dell'80%. Perché, per esempio, questo affermare... Ma questa non è un'iniziativa di Obama. Insomma. Ma non è un'iniziativa di Obama, però sono iniziative... Diciamo così, è chiaro che se il fronte americano ritorna a finanziare gli aborti in Africa e in India, il problema forse cambia anche dal punto di vista globale. Cioè, ma perché noi ci vogliamo parliamo di Africa e India, non parliamo... Ma perché... Non parliamo per esempio di casa loro, di cui stanno provando a parlare gli americani. Perché, diciamo così, quello di cui si discute adesso non è tanto quel livello sottile di discussione per cui anche in Italia l'80% dei cattolici votò a favore della depenalizzazione dell'aborto, presentato come soluzione a un male molto più grande. Qui stiamo parlando, se è vero quello che diciamo Obama ha promesso durante la sua campagna elettorale a un organismo che si occupa di pianificazione delle nascite, e se è vero quello che la proposta di legge che aveva firmato a suo tempo con un'altra senatrice, Barbara Boxer, in realtà qui si tratta di affermare un diritto assoluto come la libertà di parola, che consiste nel poter attribuire a ogni donna il diritto di scegliere di abortire in ogni momento, in ogni stato, a ogni età, anche al di sotto dei 18 anni. Questo in un contesto, per esempio, scientifico, dove, non so, per esempio, quando si parla di manipolazione genetica, la stessa Inghilterra e Australia, che sono due nazioni, sì, però si fermano al 14° giorno. Nel dire questo non ti allontani molto da quello che dice George, il cardinale George, che dice non è questione dei 18, 17, 19 anni, è o sì o no. Noi, Chiesa americana, ci alziamo e diciamo a Obama, guarda che è no. Non è questione di un terreno comune, mettiamoci d'accordo su che età è permesso, è proprio no. No, ma George, che è tra l'altro un avvocato che difende le cause davanti alla Corte Suprema negli Stati Uniti, quindi un cardinale giurista, tra l'altro il mondo è pieno di prelati giuristi, oggi ho letto anche, che anche questo studio, in India ce ne sono 180 gesuiti, solo gesuiti, che sono a diverso livello sul fronte dei diritti umani. Pone il problema, diciamo così, come viene posto, cioè se radicalizziamo lo scontro, esatto. Allora il vostro sì sarà il nostro no assoluto, ed è un peccato. Ma è un punto di partenza per entrare in relazione con un nuovo presidente degli Stati Uniti che promette, insomma... Ma io credo che, diciamo così, di fronte a una Chiesa cattolica dove chi si sveglia la mattina si sente autorizzato a attribuire qualunque turpitudine, da diciamo la battaglia antiscientifica, dimenticando che fino al 1700 le 600 università esistenti al mondo, eccettuato due, erano tutte, diciamo, fondate dalla Chiesa, e tante altre sciocchezzuole, che avviene attraverso quella deriva semantica per cui una classe borghese molto disordinata continua a far finta di essere di sinistra per distribuire categorie di destra e spacciarle magari come frontiera del pensiero progressista, quando laddove è semplicemente difesa dei propri privilegi. Però questo, diciamo così, fai capito che appartengo, certo, a quelli che non sperano che il mondo sia fatto certo, immagine e somiglianza d'America, certo, insomma, certo, in certo, futuro. E torniamo dentro, diciamo così, un problema dove, grazie a Dio, in futuro nessuno penserà mai di poter accusare la Chiesa cattolica di essere stata complice di questi attentati contro la vita che si stanno perpetrando in nome di chissà quale scientismo, con un orizzonte economicistico che viene sempre negato, che invece è sempre in prima fila, perché poi i conti tornano. Per cui in realtà ci hanno detto, ecco, questo che siamo, mi hai risposto anche all'ultima domanda che ti volevo fare, cioè una piccola tua presa di posizione sulla questione della ricerca sulle cellule embrionali. Insomma, mi sembra chiara la tua posizione ribadita. Sei contrario, ci fermiamo, sei contrario al a questo ventilato, no? Ventilata rimozione del veto di Bush sulla ricerca pubblica. No, ma sono comunque in trepida attesa. Si creano trasversalità. In trepida attesa di qualche scientifico che ci rassicuri, mi rassicuri, diciamo così, che alla fin fine si tratta solo di ricerca e non di soggiacere alle solite ragioni delle multinazionali del farmaco. Conti. Va bene, tra l'altro tra poco, a proposito di Filippo e Giacomo e delle sue passioni, tra poco si parla di Africa. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself. Think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. Dunque è rimasto tra l'altro Filippo e Giacomo a farci compagnia, perché l'argomento che trattiamo ora sicuramente è familiare anche per le sue esperienze di vita. Dunque sui giornali italiani c'è molto spazio in questi giorni per le recrudescenze della guerra in Congo tra l'esercito regolare e i ribelli di etnia Tutsi guidati dal generale Nkunda. La questione a noi ci interessa perché la Cina ha un ruolo attivo nella regione grazie a recenti costosi accordi commerciali stipulati con il governo congolese. Il capo dei ribelli Nkunda, in una intervista al Corriere della Sera, ha detto però che l'accordo con i cinesi in realtà è un affare per pochi, è un mezzo imbroglio. In sostanza i cinesi, secondo lui, si accaparrano le materie prime di cui il Congo è ricchissimo e in cambio costruiscono qualche strada, qualche ospedale. Abbiamo intervistato, partendo da questo, Maria Stella Rognoni, ricercatrice di storia d'Africa all'Università di Firenze. Poi sentiremo anche un commento di Filippo Di Giacomo. Ecco intanto una scheda della Rognoni sugli interessi cinesi in Congo. A aprile-maggio scorso la Cina ha firmato un accordo con la Repubblica Democratica del Congo, quindi con il governo Kabila Kinshasa. Questo accordo, che si basa su un investimento pari a 9 miliardi di dollari, cioè il più grosso investimento complessivo che la Cina finora ha fatto sul continente africano, diviso tra un terzo destinato a creare una joint venture sino-congolese per l'estrazione effettivamente di minerali, soprattutto nell'est del paese ma non solo, e altri due terzi invece da investire con prestiti agevolati in infrastrutture. Per cui il Nkunda parla di accordo segreto, questo diciamo non corrisponde del tutto al vero, perché di questo accordo si è molto discusso, si è discusso anche in Congo, ne ha parlato l'Assemblea Nazionale, ovviamente con voci discordi. Chi ritiene questo accordo un nuovo Marshall Plan per il Congo e il volano di uno sviluppo sempre dichiarato ma mai effettivamente raggiunto, e altri che invece ritengono che sia l'ennesima svendita del paese, forse definitiva, in mani straniere, in mani non controllabili. I termini dell'accordo non sono chiari e il rischio che si tratti dell'ennesima soluzione che porti, anziché ad una distribuzione della ricchezza, alla ricchezza per pochi e ad un nuovo picco di corruzione nel paese, è molto forte, certamente. Allora, prima di chiedere un parere a Filippo e Giacomo, sentiamo ancora la Maria Stella Rognoni, questa ricercatrice di storia d'Africa all'Università di Firenze. Sentiamo come giudica la strategia cinese in Africa. C'è chi parla proprio partendo da quanto ha fatto fino ad oggi in Congo la Cina, di un piano che prevede uno sfruttamento ad ampio raggio delle risorse cinesi per quello che riguarda in particolare l'Africa centro-meridionale, che collegherebbe proprio il Congo agli interessi cinesi affermati in Zambia e in Angola, per cui attraverso anche la costruzione di questa rete infrastrutturale la Cina riuscirebbe ad unire in un certo senso le due sponde dell'Oceano, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano, a proprio vantaggio. Da qui anche l'attivismo in Congo, che segue un uguale attivismo prima in Angola e poi in Zambia. Dall'altra parte però si dice anche si teme che questo attivismo cinese, cui per il momento non risponde un uguale attivismo da parte occidentale, sicuramente non con gli stessi mezzi in ogni caso, non con un cash così pronto come quello che hanno dimostrato di voler offrire i cinesi, rischia di produrre un accaparramento di risorse finché queste risorse ci sono, e quindi un po' di una competizione impostata sul first come first served, cioè chi arriva prima meglio si serve, insomma. Ma di fronte a quello che mi ha detto, possiamo definire i cinesi i colonizzatori del XXI secolo dell'Africa? Questa domanda potrebbe avere una risposta molto rapida, con una risposta affermativa. Contro questa interpretazione forse semplicistica, i cinesi probabilmente direbbero l'Africa ha bisogno di infrastrutture, ha dei bisogni oggettivi che noi siamo pronti a coprire e che vogliamo coprire sulla base di un mutuo riconoscimento delle reciproche sovranità, e noi abbiamo altri bisogni ai quali la stessa Africa può rispondere. E allora Barack Obama guarderà, si dice, all'Africa, anche per evidenti motivi di origine, con un interesse ancora maggiore da quello già rilevante di George W. Bush. L'Africa potrebbe divenire il luogo, no, di un ennesimo conflitto strategico Cina-America. Che cosa ne pensi di questo scenario e anche dei pareri espressi dalla dottoressa Rognoni, Filippo? Beh, bisogna ricordare che avete mai sentito parlare di colpi di Stato in Tanzania e in Zambia? No. La risposta è perché dal 60 i cinesi hanno così collaborato con i governi tanzaniani e i governi dello Zambia. Tra l'altro in Tanzania animarono... Definisci collaborato? Collaborato, cioè hanno dato infrastrutture, presenza e hanno anche probabilmente fatto gli affari loro, però sostanzialmente hanno contribuito a costruire un sistema di relazioni. Per esempio, abbiamo dimenticato l'importanza dell'Ujamaa, che fu il primo progetto di sviluppo sostenibile sostenuto da Julius Nyerere, ai quali poi fece lo sgambetto in epoca immediatamente precedente alla fine dell'apartheid, perché era, diciamo, sulla frontiera del no, ma che non ha mai provocato niente che una forte dinamica democratica. Quindi sei favorevole, in sostanza. Ma io magari arrivassero i cinesi, perché poi in realtà come ingegneri sono persone che portano non solo le loro competenze, ma sono, diciamo così, non abituate a quella mentalità di rapina per cui l'Africa è sempre stato il rifugio di qualunque avventuriero che magari falliva in Italia e diventava milionario o veniva a vendere nulla se non a fare finta cioè io ho visto durante le stagioni secche i mercenari di una nota compagnia sparare lungo i fiumi a qualunque gruppo di persone più numerosi, 10 persone, solo perché temevano che stessero setacciando i fiumi per trovare diamanti. Va bene, ti posso definire una voce fuori dal coro, tu dirai quale coro? Quale coro? Quale coro? grazie a Filippo Di Giacomo, che è stato ospite con noi, a Jefferson Ming, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, la parte tecnica in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte, l'indirizzo è jeffersonming@radio24.it. Questa puntata in replica stasera alle 9, domani in diretta come sempre alle 4 qui da Radio 24. Ci risentiamo.